Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 1 febbraio, buongiorno, benvenuti di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma di informazione, intrattenimento e cultura che fa da ponte tra carcere e città. E sempre con voi ci siamo io, che sono Caterina Bombarda, e Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno e bentornata. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Apriamo subito il nostro radiogiornale con le notizie di oggi. Ne leggo una interessante dalla Repubblica, un'intervista fatta da Sandro De Ricardis a Gherardo Colombo. La pandemia ha fatto esplodere la rabbia, ma ora i giovani vanno aiutati. Eh sì, perché 3 giorni fa Gherardo Colombo, che come sapete è un ex magistrato, giurista, saggista e scrittore italiano, ha partecipato a un incontro pubblico su legalità e sicurezza nella città di Voghera. Ed è un incontro avvenuto in una città tristemente nota, purtroppo lo scorso anno, una città in provincia di Pavia, perché c'è stato un cortocircuito proprio tra quella che è la legalità e la sicurezza, siccome il 20 di luglio l'assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici sparò, uccidendo con un colpo di pistola, un cittadino marocchino. E ora ci sono le indagini in corso. Ovviamente Gherardo Colombo, siccome ci sono le indagini in corso, non è entrato nel merito di questa triste vicenda, ma si dice oggi molto preoccupato per i tanti fatti di cronaca che vedono sempre più protagonisti giovani e adolescenti. Caterina, secondo un po' l'analisi di Colombo, che cosa sta succedendo nelle nostre città? Guarda, fino all'anno scorso i reati contro la persona che incidevano poi sul nostro senso di sicurezza, come per esempio notizie riguardanti le risse, lesioni, omicidi, sembravano sempre in progressione calo. Oggi invece Gherardo Colombo teme che ci sia un'inversione di tendenza e anche le statistiche pian piano lo stanno dimostrando. Tra le cause di questa inversione di tendenza, ovvero cosa sta succedendo nelle nostre città italiane, Colombo vede un po' gli effetti della pandemia. Dice infatti nel corso dell'intervista Repubblica che oltre al disastro sanitario c'è anche quello che ha colpito le relazioni sociali. Lui dice tra individui, ma anche all'interno delle famiglie. Il Covid ci ha costretto a una convivenza forzata per mesi abbondanti, un periodo in cui si incontravano soltanto le persone che erano in casa con noi. Questo ha esasperato i rapporti che potevano essere curati semplicemente con la possibilità, allora negata, di poter andare a fare un giro da soli. La considerazione da fare è che dal primo lockdown è passato molto tempo, eh. È vero, ma lui dice che a livello sociale è cresciuta però tantissimo la rabbia. È vero che è passato il tempo dell'essere chiusi in casa tutti insieme, ma da allora il nostro senso di frustrazione, di rabbia, anche di sentire la coercizione rispetto alle regole stringenti da Covid-19, ha aumentato il nostro senso di frustrazione. Un rancore che si esprime in tanti modi e attraverso tanti canali. Lui pensa per esempio al fenomeno dei Novax, che ha a che fare, secondo lui, con la crescita del rancore da parte dei cittadini che non vogliono stare alle regole. E lui vede anche un aumento dei reati, forse anche quelli contro il patrimonio, legato a un forte senso di insoddisfazione personale con la difficoltà anche di avere un rapporto sano con gli altri che ci circondano. Tutto questo, secondo Colombo, ha inciso in modo particolare anche sulle persone più giovani. E lui dice che non è tanto sbagliato anche vedere nella perdita di socializzazione per il Covid la causa dell'aumento di episodi di violenza tra giovani. Senti, lui vede una via d'uscita a questa situazione? Ma ormai lo sappiamo, Gherardo Colombo da anni lavora anche all'interno delle scuole, incontra tanti ragazzi e riflette tantissimo sul tema della legalità. Quindi per lui la strada è quella di lavorare sulla ricostruzione delle relazioni con l'altro. Lui dice che il rispetto della legge deve essere condiviso e soprattutto legalità vuol dire attenzione alle persone più deboli. Ma non solo, si deve anche lavorare nelle scuole, sui mezzi di comunicazione che sono pieni di odio, e lui pensa non solo ai social, ma anche a molte serie televisive dove la violenza è ostentata e anche molto apprezzata, e questo finisce per farla sembrare un mezzo naturale che ci legittima a esercitarla. Questo è il pensiero di Gherardo Colombo, scriveteci cosa ne pensate, redazione liberidentro@gmail.com, ma lanciamo un brano musicale e ci rivediamo tra pochissimo, i Black Eyed Peas con Where is the Love, a tra poco. Always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Siete sempre su Liberi Dentro e su Radio TV. Continuiamo con il nostro radiogiornale. Parliamo del Capodanno cinese che si celebra proprio oggi. Infatti, buon Capodanno cinese a tutti gli amici cinesi che ci seguono, anzi scriveteci perché vogliamo sapere effettivamente voi come lo festeggerete o come di solito lo avete festeggiato, perché il Capodanno cinese o festa della primavera è una festività tradizionale e veramente importante, forse la più importante del calendario cinese. Come sappiamo la data cambia ogni anno, ma è sempre tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. E tra l'altro il Capodanno cinese 2022 è oggi, come diceva Caterina, e secondo l'astrologia cinese dà inizio all'anno della Tigre, mentre il 2021 è stato l'anno del Bue e il prossimo anno, il 2023, sarà l'anno del Coniglio. Il Capodanno cinese è conosciuto come festa di primavera o Capodanno lunare ed è la festa tradizionale, come vi dicevo, più importante, paragonabile alle festività natalizie dei paesi occidentali. Infatti abbiamo anche tante similitudini in realtà. E in occasione di questa festività sono previsti 7 giorni di vacanza, anche se in realtà le celebrazioni durano molto di più, durano 16 giorni dalla vigilia di Capodanno e alla festa delle lanterne. È il momento, come un po' facciamo anche noi durante le feste, in cui le famiglie si incontrano, si riuniscono per il tradizionale cenone, fanno offerte per le divinità e per gli antenati, pregano Buddha e si dedicano anche alle cosiddette grandi pulizie di primavera. per pulire la casa dallo sporco dell'anno passato e per poter far posto alla felicità e alla buona sorte, al nuovo che arriverà con il nuovo anno. La festa di primavera è celebrata anche in molti altri paesi asiatici, ovviamente non solo in Cina, come Malesia, Singapore, Filippine, Vietnam, ma anche nelle diverse Chinatown di tutto il mondo. Basti pensare a New York, che c'è una Chinatown enorme, Londra, Milano e anche Prato. E mentre ci racconti queste particolarità che legano i vari paesi alla festa della primavera, dici anche perché si chiami festa della primavera nonostante il primo di febbraio siamo in pieno inverno. Eh no, hai ragione, è un'osservazione assolutamente pertinente. Allora, il nome cinese del Capodanno, scusatemi amici cinesi che lo pronuncerò malissimo, anche perché il cinese lo sappiamo è una lingua tonica, quindi la riproduzione è difficile, ci provo, Chun Jie, ed è tradotto come festa della primavera. E se il Capodanno cinese è in inverno, giustamente tu dici, ora chi si chiama festa della primavera? La risposta si trova proprio nel calendario cinese. Il Capodanno cinese cade durante il primo periodo dei 24 termini solari del calendario tradizionale, chiamato Li Chun, che significa appunto inizio della primavera. E quest'anno, cioè ogni anno del Capodanno cinese è legato a un animale e quest'anno si celebra l'anno della tigre. Particolarità, curiosità? Allora, guarda, intanto ti dico che secondo il calendario cinese c'è questa corrispondenza ad un animale seguendo un ciclo di 12 anni, cioè quest'anno è l'anno cinese della tigre e si ripete ogni 12 anni, per cui cominciando dal 1926, 1938, 1950 e così a seguire. Quindi ogni 12 anni è lo stesso animale. Scusa Caterina, ma tu sai qual è il tuo animale dell'oroscopo cinese? Guarda, l'ho scoperto quando ero molto piccola in un ristorante cinese, il mio è l'anno del drago, 88. Ah, pensa te. Invece il mio è l'anno del serpente, aiuto, che segno strano. Vabbè, ma a parte questa piccola osservazione che facciamo tra di noi, il periodo di festa dura 16 giorni, e comincia appunto con la vigilia di Capodanno, termina con la festa delle lanterne, e le fabbriche, le scuole chiudono per quella settimana, come anche da noi in realtà, anche se un po' più lunga il nostro periodo, si ferma un po' tutto. E, in alcuni villaggi e nelle città si organizzano eventi legati al folklore, come fiere del tempio, spettacoli, danze tradizionali. Le zone rurali, dove le tradizioni sono più sentite, si ripopolano perché tornano tutti a casa. E le persone che lavorano fuori nelle città rientrano nel loro paese e trascorrono il tempo con i loro cari. E infatti le metropoli non a caso in quel periodo si svuotano. E le decorazioni per questa festa come sono? Ah, le decorazioni sono molto molto belle e immaginati qual è il colore più diffuso, è il rosso. Il rosso, che è il colore porta fortuna per eccellenza. Pensa che ogni strada, casa, palazzo in cui si celebri il Capodanno è decorato di rosso, le lanterne rosse, ci si veste di rosso, non soltanto l'intimo, che in realtà è d'uso anche da noi, ma anche gli anelli, qualsiasi cosa tu indossi deve essere rossa, o quasi tutto, diciamo. E rieccoci dopo aver sentito questa bella canzone cinese e state con noi perché adesso c'è l'intervista a Sara Malagoli, assistente sociale del progetto di Mittendi. Eccola. E rieccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, riprendiamo la seconda parte del programma come di consuetudine con l'ospite di oggi. Abbiamo Sara Malagoli, assistente sociale del progetto di Mittendi. Buongiorno Sara e grazie di essere con noi. Buongiorno. Grazie, piacere mio, insomma, di esserci. Non sei un volto nuovo su Eduradio, l'agenzia Tecnotrade che lavora per ASP Città di Bologna ti aveva intervistato già lo scorso anno per parlarci di questo progetto. Questo progetto fa parte degli interventi del servizio sociale Bassa Soglia attivato alcuni anni fa da ASP Città di Bologna su mandato del Comune di Bologna e si occupa del reinserimento in società delle persone detenute. Quindi oggi ce ne parli tu e spiegaci innanzitutto che cos'è questo progetto e quali obiettivi si pone. Ok, allora il progetto di Mittendi che è inserito all'interno del servizio Bassa Soglia è un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna in cogestione con ASP Città di Bologna e il Consorzio Arcolaio. È presente dal 2014 e questo progetto, quindi prima non esisteva nulla di simile, è un progetto proprio pensato sul Comune di Bologna, quindi sulla casa circondariale Rocco D'Amato, che è appunto è il carcere presente nel nostro comune. E il progetto, cioè il servizio, è composto da due operatrici dedicate e da una coordinatrice. E io sono una delle due operatrici, sono assistente sociale e il nostro compito è veramente vario, però fondamentalmente si articola all'interno e all'esterno del carcere, quindi all'interno e svolgiamo colloqui per individuare le persone che nel momento dell'uscita avranno delle difficoltà nell'integrazione socio-economica. E poi c'è la parte esterna, e quindi il nostro ruolo appunto è proprio di ponte, di passaggio, perché cerchiamo di intercettare le persone uscite dal carcere anche all'esterno, e presso il nostro servizio Bassa Soglia e tramite poi lo sportello di Help Center che è aperto tutti i giorni e, per dare quindi, come dire, sempre una possibilità di risposta a chi si trova in difficoltà, quindi la difficoltà che può essere prima dell'uscita nell'organizzazione, proprio quindi nell'iniziare a pensare cosa faccio dopo quando esco e esserci anche nel momento poi dell'uscita, quindi ora sono uscito, no, in questo momento nessun riferimento, nessun appoggio. Ecco, questo servizio vuole essere questo, vuole essere una presenza, una possibilità di avere delle risposte, delle consulenze e un sostegno vero e proprio verso l'obiettivo che ogni persona poi si pone. Ecco, questo è un po' l'obiettivo macro del servizio di Mittendi. Grazie Sara. E una cosa mi incuriosisce, avrei voluto chiederti se esistevano dei progetti simili a questo prima del suo lancio, ecco, attraverso ASP Città di Bologna. Mi pare di capire di no. Motivo? Il motivo faccio fatica a dirlo, però sì, effettivamente non c'erano esperienze simili prima di questo. È stato proprio un esperimento che poi si è rivelato molto utile, per cui sta proseguendo e quello che sappiamo è che poi si è diffusa, ecco, questa pratica, per cui anche in altri penitenziari si è attivato questo tipo di intervento e in ogni comune ha articolato diversamente la propria l'attività, però ecco, sì, sicuramente quella di Bologna è stata proprio una apripista, ecco, come esperienza, come esperimento. Quindi anche voi cercate di creare il cosiddetto ponte di collegamento tra dentro e fuori il carcere. Lo abbiamo visto con altre associazioni, per esempio anche il CEFAL oppure lo sportello di esecuzione penale interna ed esterna. E voi come lo fate tutto questo processo di ponte tra l'esterno e l'interno? Vi aiuta anche i servizi del territorio? Riuscite a fare rete? Allora sì, questo assolutamente, anche perché dal 2014 ad oggi si è proprio lavorato per questo, con questo obiettivo, cioè di essere proprio un ponte concreto, quindi di poter dare delle risposte utili proprio per le persone, e la rete per questo è indispensabile. Ed ecco, i collegamenti che si creano a partire dal primo collegamento, che è proprio con la persona, che ancora si trova all'interno, che è prossimo all'uscita, e quindi iniziamo proprio conoscendo le persone e parlando si riesce ad avviare un percorso, un processo che ha proprio l'obiettivo di portare a un'uscita più serena possibilmente, cioè un'uscita in cui la persona sa a chi rivolgersi, dove andare, e quindi non si trova completamente spiazzato. E quindi il ponte è proprio sia con le persone, poi appena conosciute si cerca anche di reperire informazioni da servizi interni al carcere, in modo da avere il quadro della situazione completa, quindi anche a livello sanitario, che è sempre un tema molto importante, e poi il collegamento già si attiva da dentro, quindi nel momento del primo colloquio, se già si intuiscono dei bisogni per cui è necessario creare un collegamento con un servizio sociale del territorio di residenza della persona, piuttosto che un servizio sanitario che potrà prendere in carico la persona al momento dell'uscita, nel caso una persona abbia una terapia e delle medicazioni da proseguire. E quindi ecco, i collegamenti sono molto personalizzati, cioè per ogni persona si cerca di attivare il servizio adeguato. E questo è il lavoro, ecco, è variabile, perché per ogni situazione si attiva un percorso diverso. Poi ci sono delle situazioni che si ripetono, e nella media, ecco, delle problematiche incontrate, e quindi abbiamo una rete ormai consolidata. Quindi se abbiamo un bisogno specifico sanitario sappiamo a chi rivolgerci, se la persona ha bisogno di un posto in accoglienza abbiamo anche lì dei posti riservati nelle strutture cittadine, per cui ecco, su alcuni interventi abbiamo proprio degli standard e quindi ci attiviamo anche molto rapidamente. Sulle situazioni un po' ecco, diverse che appunto escono un po' dal quotidiano ci attiviamo nello specifico. Quindi sì, è un lavoro davvero molto interessante. A misura di persona, esatto. Sara, io ti ringrazio, sono tante le domande che ti vorrei fare ancora, ma ho la fortuna di averti qui anche domani, quindi un carissimo saluto, ci rivediamo domani a te e anche a tutti i nostri ascoltatori. Una canzone prima dei saluti finali di fine puntata, Wind of Change degli Scorpions. Grazie, ciao. Grazie. Sara. Ciao. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind E anche oggi, mentre ci salutiamo, vi annunciamo la rubrica a seguire nella prossima mezz'ora, cioè l'intervista a Luca Rizzonervo, che è l'assessore al welfare, nuove cittadinanze e fragilità del Comune di Bologna. Lo avete sentito la settimana scorsa nelle piccole pillole di intervista che gli ho fatto, ma questa volta avete l'opportunità di ascoltarlo in versione integrale. Ascoltiamolo insieme e come al solito scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e un saluto da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco, Paola Leotti, Diana Botta, ci rivediamo domani. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.